1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Cari amici, la 143esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. E noi siamo puntualmente qui ai microfoni di Radio 24 con 24 Mattino. È il momento della lettura dei giornali. Parleremo poi di tante cose. Più avanti avremo ospite il sottosegretario alla pubblica amministrazione Rughetti per parlare di questa riforma che promette di velocizzare il licenziamento dei furbetti del cartellino, ma non solo, la riforma della pubblica amministrazione promette anche tante altre cose, la riduzione delle società partecipate, insomma tanti temi che tratteremo col sottosegretario e con voi. E che dire, andiamo a leggere i giornali e facciamolo, va! Lunedì 25 gennaio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulle pensioni, ecco come è cambiata l'Italia delle pensioni, è la mappa dei trattamenti INPS, in Piemonte il record delle anzianità, la vecchiaia al top ad Ancona, mentre ad Oristano le invalidità civili sono il triplo rispetto a Prato e Modena. Questi alcuni dei dati poi dettagliati a pagina 2 e 3 sulla mappa appunto delle prestazioni erogate dall'INPS. Per il Corriere della Sera il titolo di principale è questo: i nuovi diritti delle partite IVA, assegni a chi lavora in maternità, tutele per la malattia, il piano per i poveri. In Consiglio dei Ministri giovedì arriveranno due decreti a riguardo. Poi Repubblica, Unione Europea e lite sui confini, vertice su Schengen, banche, tutto in salita. Oggi ci sarà il summit straordinario dei ministri dell'interno sulla questione migranti. La Stampa, l'Unione Europea vuole un patto tra i servizi segreti per fermare l'ISIS. Questo è il titolo di prima pagina. La proposta verrà discussa al vertice di Amsterdam. Il titolo invece di apertura del quotidiano Il Giornale, ecco chi ci ha rovinato: Monti, Letta e Renzi. Mentre Libero, Etruria, il piano dei massoni trasformarla in banca islamica. Il presidente e papà Boschi confessano a Carboni di cercare un partner finanziario e i grembiuli si danno da fare con il Qatar. L'apertura dell'Unità invece riprende l'intervista di ieri a Beppe Grillo del Corriere della Sera, una sorta di passo di lato dal Movimento 5 Stelle annunciato da Beppe Grillo. Il titolo dell'Unità in prima pagina è Il salto del Grillo. Beppe torna Libero, preferisce la tournée da comico ai grillini in piena confusione. Il Fatto Quotidiano invece: Serra, strani SMS con Renzi. Serra in questo caso è Davide Serra, il presidente di Algebris, il fondo tra Londra ed Italia. A Rai 3 il titolare del fondo Algebris difende l'intera famiglia Boschi su Etruria, ma non spiega i suoi tentativi di entrarci. Insomma, il Fatto Quotidiano si concentra su Davide Serra. Mentre il Messaggero, tra poco lo vedremo, è un'intervista in esclusiva al commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, che dice è a rischio l'unità dell'Europa, e questo è il titolo principale. Ma voglio partire dai cosiddetti furbetti del cartellino, perché la notizia, ne parleremo più avanti, ma la notizia di ieri è che è stato licenziato quello che è diventato per molti l'emblema dei furbetti, quel vigile urbano che in mutande e canotta andava a timbrare a Sanremo il proprio cartellino. Timbrava in mutande, licenziato il vigile. È il titolo di pagina 17 del Messaggero, ma tutto i giornali hanno una pagina su questo tema, anche perché lui parla e si difende, Alberto Muraglia. Sì, è vero, timbravo in mutande, ma soltanto nei giorni festivi. Questo è il titolo della Stampa e del Secolo XIX. Giulio Gavino e Gianni Micaletto raccontano per il Secolo XIX a pagina 6. Non sono un assenteista, penso di essere un capro espiatorio, non soltanto io ho timbrato in mutande ma nei giorni festivi, dovendo stringere i tempi per la rimozione di veicoli di divieto di sosta, e comunque quando i locali erano chiusi al pubblico. Si difende così uno dei cosiddetti presunti furbetti del quartierino, del cartellino licenziato. Lui dice: il mio alloggio, l'ufficio e la timbratrice sono contigui. Ho timbrato in mutande in 6 occasioni, tutte festive, quindi a mercato chiuso. Dovendo stringere i tempi per la rimozione dei veicoli che ostacolavano il posizionamento dei banchi del mercatino, per non attraversare casa bagnato fradicio, ecco che timbravo così. Ma a timbrare ha mandato anche la moglie e la figlia. Sono stato superficiale, in questo ho sbagliato, ma ero presente in servizio. In queste circostanze, poiché mi ero attardato a chiudere pratiche d'ufficio, ho chiesto a mia moglie o mia figlia, che venivano a chiamarmi per andare a tavola, di timbrare al mio posto, ma ero lì. Insomma, dice, sono un capro espiatorio, lotterò fino alla fine per ottenere nuovamente il mio posto di lavoro. Tra l'altro, svela, ho ricevuto anche una mail di solidarietà da Alberto II, il re del Belgio, che nel 2013 ha abdicato a favore del figlio Filippo, perché ho lavorato come marinaio cuoco sullo yacht utilizzato dalla famiglia reale per le vacanze estive e dunque mi hanno chiesto, si sono ricordati di me. Eccolo qui comunque, vigile in mutande ma mai assenteista. Non merito la gogna anche su Repubblica. La difesa del vigile Alberto Muraglia. Sta di fatto che è stato licenziato. Vedremo ovviamente gli sviluppi. Rimarrei in Liguria, c'è una vicenda di tutt'altro tipo che però sta facendo molto discutere, è l'apertura del secolo XIX, è un incidente con morto causato da un ecuadoregno drogato e ubriaco alla guida. È una vicenda che il secolo XIX mette in prima pagina, beve e uccide, rabbia Genova. È la vicenda che ha visto una vittima, Giuseppe Buttaro, 59 anni, falciato mentre andava dalla figlia, come tutte le domeniche, a pranzo, dalla figlia e dai nipotini. È successo poi che la rabbia del quartiere popolare Certosa, nel ponente di Genova, si è manifestata con un blocco della strada, rimaniamo qui finché non arriva il sindaco, e anche le minacce, mettetelo in galera e per tanto tempo, altrimenti a lui ci pensiamo noi. È la rabbia della gente che ha visto una vita spezzata così, anche la figlia, racconta Riccardo Porcù a pagina 3 del secolo XIX, dice: ha spezzato la figlia la vita di un padre e di un nonno che ci adorava. Deve restare anni in galera, altrimenti ci pensiamo noi. Ovviamente fa ripartire proprio nella settimana in cui non è stato approvato l'omicidio stradale, proprio si è arrivati a un soffio, fa ripartire questo dibattito. Ora il caso diventa politico, come racconta Erika Della Casa a pagina 18 del Corriere della Sera, ma certo c'è di base l'ennesima tragedia legata a un'uccisione e chi era la guida era ubriaco e drogato. Ma a proposito di politica e a proposito di riforma della pubblica amministrazione, c'è un altro tema che è quello del taglio delle società partecipate. Questa è un'altra annosa questione che già ricordate anche il capo della Spending Review Cottarelli, quando era capo della Spending Review, lui aveva lanciato, cioè l'idea di come tagliare le società partecipate, che sono circa 8.000. Oggi il Sole 24 Ore in realtà le conta, sono 7.726, e si pone la domanda: allora con questa riforma quali società partecipate verranno cancellate? Secondo Gianni Trovati, pagina 5 del Sole 24 Ore, il bilancio condanna almeno 2.500 partecipate. Perché il bilancio? Perché ci sarà l'obbligo di alienazione se il fatturato medio non raggiungerà il 1.000.000 euro l'anno. E allora bisogna capire quali sono, e secondo un calcolo, una mappatura del Sole 24 Ore, sono appunto 2.500 le partecipate che potrebbero finire subito nella tagliola e potrebbero essere alienate, 2500 su 7726, neanche tantissime in base a quelle che sono le promesse. Anche Sergio Rizzo oggi se ne occupa, pagina 4 del Corriere della Sera. Le società fantasme, il rebus dei tagli, Sergio Rizzo fa anche dei nomi, dice: spirerà finalmente Rete Autostrade Mediterranee, un dipendente e 8 tra amministratori e sindaci? Oppure la Sogesid, che da 20 anni sopravvive a dispetto di ogni logica? O piuttosto Risorse per Roma, società dalla natura incomprensibile, controllata dal Comune di Roma, che riempie ogni mese 600 buste paga? E allora l'elenco di queste società fatte da Sergio Rizzo, a chiedersi sempre chissà quale di queste verrà tagliate dalla riforma della pubblica amministrazione. Comunque Gianni Trovati e Sergio Rizzo ne scrivono uno sul Sole 24 Ore, l'altro sul Corriere della Sera, le società partecipate. Ne parleremo col sottosegretario Rughetti. Ma ecco qui l'articolo che mi fa pensare. Quello da Mani sul Volante, Mani sulla Sveglia. Io leggo la pagina di Viviana Ponchia sul Giorno, a pagina 17, già il titolo è questo: svegliarsi all'alba è un successo. Ecco il segreto dei top manager. Sicuramente l'avrà scritto una giornalista che si sveglia alle 10, 10 e mezza, 11. Ci ricorda che i grandi, Margaret Thatcher riposava 3 ore, Winston Churchill faceva regolari pennichelle, Thomas Alva Edison 3 ore. Sì, dai, Silvio Berlusconi 2 ore, ma dai, ma che, ma cosa andate a credere? Comunque, il segreto è questo: svegliarsi all'alba è un successo. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, dell'informazione, insomma. Anche questa non è male, eh? Geniale, geniale. Potete mandarle al 349-238-6666 via WhatsApp, come ha fatto questo signore. Un bel audio WhatsApp chiaro, bello, così si sente molto bene e la qualità è buona per essere mandati in onda, perché se ce li mandate mentre state guidando, mentre state cambiando il bambino che strilla, mentre, no, capite, siete nel traffico, col viva voce, l'auricolare, c'è la qualità della messa in onda, no, non si possono mandare. Allora, cari ascoltatori, si fa l'Europa in questi giorni oppure no? Cioè, guardate che la questione è molto più seria di quanto la possiate percepire voi nelle vostre giornate tranquille. Sulla questione dell'immigrazione, oggi c'è un summit straordinario di tutti i ministri dell'interno dell'Unione Europea ad Amsterdam e si discute di Schengen, cioè la libera circolazione delle persone, o se ripristinare le frontiere. Questo è il rischio. E il fronte di chi dice: guardate che se si ripristina Schengen, se si ripristinano i confini, non ha più senso l'unità europea. E allora non ha più senso anche la moneta unica europea. Cioè il rischio è che sia un processo a ritroso che possa mettere a repentaglio anche l'unità europea nella unità monetaria, e dunque nell'euro. Questo almeno è l'allarme che lancia anche Dimitris Avramopoulos, commissario europeo per l'immigrazione e gli affari interni, in un'intervista esclusiva al Messaggero. L'intervista la trovate a pagina 3, Teodoro Andreadis Singellakis lo intervista, e dice Avramopoulos: è a rischio l'unità europea, aiutiamo Italia e Grecia. Nel 2018, dice Avramopoulos, non è in gioco Schengen, si tratta dell'unità europea nel suo insieme, non si può essere guidati dalla paura, frenati dai populismi. Sono d'accordo con Renzi, l'ho detto più volte insieme al presidente Juncker, Schengen e la libertà di movimento è una delle conquiste più grandi dell'integrazione europea, dobbiamo far tutto il possibile per salvaguardarla. La crisi dei rifugiati oggi sta mettendo in gioco qualcosa di più grande del solo trattato di Schengen. è ancora possibile mantenere il principio di solidarietà, aiutare i rifugiati, costruire un futuro migliore in Europa? Non credo ci sia un'alternativa, risponde Avramopoulos. Rifiuto di essere guidato dalla paura o frenato dal populismo. La nostra responsabilità come politici è affrontare e allontanare le preoccupazioni e le paure dei nostri cittadini. E poi dice comunque voi in Italia dovete fare gli hotspot, aprire gli hotspot, quelli dove poi vanno identificati i migranti. Roma e Atene sono impreparate a reggere la pressione. Tra l'altro c'è da un giorno, insomma, da un po' di tempo, ma ieri c'è stata una protesta a Calais dei migranti che vogliono andare verso il Regno Unito. Ci sono tensioni che aumentano. Il Corriere della Sera racconta anche di un episodio, tra l'altro immortalato dalle telecamere, terribile in Svezia, di un tentativo di furto di una borsa da parte di un tunisino poi identificato nei confronti di una donna svedese. La donna svedese che resiste al borseggio grazie anche all'intervento della figlia, la figlia piccola, e allora l'uomo tunisino che torna e le sputa in faccia, tutto immortalato dalle telecamere. E a pagina 3 del Corriere della Sera si mette questa storia: il furto, lo sputo, l'uomo più odiato della Svezia, questo tunisino che ora è stato espulso in Danimarca, ma anche la Danimarca si chiede perché ce lo dovremmo tenere noi. Espulso in Danimarca perché proveniva da lì, e la Danimarca dice perché ci dovremmo tenere l'uomo più odiato della Svezia dopo questo episodio immortalato delle telecamere. Capite che in tutta questa tensione, e in mezzo anche ai populismi, ma anche in mezzo alle tensioni legate alla sicurezza, si svolge questo summit importante per capire quale sarà il destino di Schengen e dell'Europa stessa. Infatti Alberto D'Argenio su Repubblica mette a pagina 4, Repubblica apre su questo tema, pagina 2, 3 e 4, e D'Argenio mette a pagina 4 appunto la posizione dei vari paesi, cosa ne pensano Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Grecia, il Benelux, cioè Belgio, Olanda e Lussemburgo, che appoggiano Juncker, l'Austria, i vari scenari. Sarà una settimana importante per l'Europa. A due passi dall'Italia e dell'Europa, sapete, c'è la Libia. E anche lì c'è una notizia su Repubblica interessante, perché la Libia, l'Italia è pronta ai raid contro l'ISIS. È il patto con gli Stati Uniti di cui parla Vincenzo Nigro. Lo racconta così: ogni azione degli americani è concordata con noi. La sintesi arriva da Palazzo Chigi, dice che l'Italia è pronta ad azioni militari se sarà necessario con i nostri alleati su richiesta del governo di Tripoli e nel quadro dettato dalle risoluzioni ONU. Quindi in questa cornice, su richiesta del governo di Tripoli, al fianco degli alleati e all'interno di una risoluzione ONU. Questa è la propensione dell'Italia a intervenire militarmente dovesse esserci la necessità. Lasciamo la politica estera, veniamo a quella italiana, dove si discute totalmente delle unioni civili. È la settimana delle unioni civili, sono state le manifestazioni sabato delle famiglie arcobaleno, comunque di tutti coloro che erano a favore, sono a favore di questa legge sulle unioni civili. Sabato invece ci sarà il Family Day, e tra piazze che si contrastano, giovedì alla Camera arriva, al Senato per la verità, il disegno di legge Cirinnà. Tra i tanti articoli vi faccio notare il presidente del PD Orfini, intervistato da Repubblica, da Goffredo De Marchis, a pagina 9, dice: la legge si può limare un pochettino, ma i pilastri non si toccano, e soprattutto lancia questa idea: non si voti in segreto, si rinunci dunque al voto segreto. Questo è l'appello di Orfini. Non sarà certamente il PD ad avanzare una richiesta del genere, e cioè la richiesta del voto segreto. La nostra discussione è alla luce del sole, e dunque sia alla luce del sole, per quel che riguarda l'auspicio di Orfini, anche il voto. Mentre scende in campo con due interviste al Messaggero e alla Stampa Beatrice Lorenzin, ministro alla salute, che dice: io non sarò al Family Day perché sarò in Cina. E comunque non sarei al Family Day perché, dice alla stampa, intervistata da Paolo Russo, sono il ministro di tutti gli italiani e non sarei andata per evitare sterili strumentalizzazioni. Ma la posizione di Beatrice Lorenzin è questa. Sentite la stampa. È crudele dire che gay e lesbiche non possano essere buoni genitori. Non è questo il punto. Dobbiamo innanzitutto garantire il diritto dei bambini a nascere e crescere con una mamma e un papà. Dunque, garantire come primo diritto questo, e non andrò in corteo coi cattolici solo per ragioni di opportunità. Sono d'accordo sul regolamentare e garantire diritti alle coppie dello stesso sesso, ma no alle adozioni per gli omosessuali, no alla maternità surrogata, che per la verità è già vietata in Italia. Questo non significa che un omosessuale e una lesbica non possano essere dei buoni genitori. Dirlo sarebbe una stupidaggine. Ma prima di tutto viene il diritto del bambino ad avere l'opportunità di crescere con entrambe le figure materna e paterna. Così Beatrice Lorenzin. Mentre la polemica è anche per l'intervento della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che dice: sia la stepchild adoption, dunque all'adozione per il partner omosessuale, e questo le procura accuse di non essere un arbitro imparziale. Insomma, il clima è questo. Sentite per esempio Alessandra Arachi cosa racconta pagina 7 del clima che si preannuncia in virtù degli emendamenti. Allora, il senatore renziano Marcucci ha firmato un emendamento, detto emendamento premissivo, cioè un emendamento che in premessa contiene tutta la legge Cirinnà. Perché ha fatto questo emendamento premissivo? Per evitare la discussione bypassando tutti gli altri emendamenti. Quindi un emendamento che in premessa contiene già la legge fa saltare tutti gli emendamenti. E allora il senatore Centinaio della Lega ha detto: ah sì, ha fatto l'emendamento premissivo e io farò un emendamento per emendare l'emendamento premissivo. Tutto chiaro, no? Chiarissimo. Ma è il momento di Mauro Meazza, che ha mangiato pesante lasagna. Lasagna! Incredibile, ma vero! Kevin Lasagna segna il suo primo gol in Serie A! Indigesta, caro Mauro Meazza, le lasagne la domenica, quante volte ti avevo detto? No, buongiorno, peraltro all'ora della merenda la lasagna si sa che non è il piatto più indicato, ma mi fa piacere che bastino queste poche cose, insomma una lasagna in casa d'altri a sollevare il tuo umore dal basso. Meglio di un classifica. Maccarone a casa nostra. Beh, insomma, no, lasciamo stare i maccaroni, so che anche Peter aveva cercato qualche inserto audio sui maccheroni, non so se può agevolarlo in questo momento. Non lo so, ma mi sembrava che si... m'hai provocato e io li distruggere. Ma via, maccheroni. Va bene, chiudiamo questo siparietto indegno, anche perché noi due ci alziamo presto e quindi abbiamo successo, come hai detto poco fa. Io un po' più di te, devo dire un po' più. Sì, infatti tu hai molto più successo di me, giustamente, perché ti alzi prima di me. Ecco. Ma non ci alziamo prima per queste discutere di queste pinzillacchere da bar, ma invece perché ti voglio dire che domani, con il Sole 24 Ore, ci sarà la guida alla riforma della pubblica amministrazione, la riforma Madia. So che poi tu ne parlerai anche più tardi. Hai già ricordato che abbiamo questo servizio importante sulle partecipate. Ti voglio aggiungere che debutterà il biglietto del tram o del pullman o dell'autobus trasparente. Cioè, si dovrà capire quanta parte è del biglietto va a pagare il costo del servizio e quanta parte invece viene finanziata dalle imposte locali. Bella questa cosa, perché molti cittadini già viaggiano con il biglietto trasparente. È trasparente nel senso che non si vede, esatto. C'è anche questo fenomeno su cui la riforma peraltro chiede di intervenire proprio ai gestori, che dovranno fare di più per combattere questa forma di evasione. Lo trovi tutti particolari sul Sole 24 Ore. Poi questa è una settimana non decisiva, ma di più. di più che decisiva, ma non per quello a che numero siamo per le province? 143. 143, va bene. Allora, io voglio dirti che nella 143esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, invece, si svolgerà Telefisco, che è molto più decisivo per tutti coloro che si occupano di fisco, avvocati, professionisti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, insomma tutte le varie categorie che sono tenute a occuparsi delle novità fiscali, giovedì 28 Telefisco, quindi la settimana da questo punto di vista è davvero decisiva. Se vuoi saperne di più, perché non vorrei che poi tu ti presentassi il giovedì proprio impreparato, come qualche fai scena muta su Telefisco, ecco, allora vai nelle pagine di Norme Tributi Oggi, tutti i temi di Telefisco alle pagine 2 e 3 della parte di Norme e Tributi che tu leggerai come d'abitudine religiosamente. Bravissimo, vedi che quando vuoi dai soddisfazione. Allora, poi c'è, ma ci sono molte altre cose naturalmente sul Sole 24 Ore di oggi, ti voglio segnalare una notizia che sembrerebbe buona: è aumentata nel 2015 la domanda di credito da parte delle imprese. Un pochino, un segnale positivo, poi bisogna vedere naturalmente se questo credito viene erogato, ma il fatto già che ci siano più richieste manifesta una certa fiducia in ascesa. Poi naturalmente l'esperto risponde, ti parliamo di Bitcoin e c'è anche l'ebook dove ti parliamo di voucher per i mini lavori, sai, questa novità di pagare i contributi con questo sistema dei voucher, e molto molto altro. So che qualcosa è stato anche già detto nel giornale radio, quindi non ti voglio tediare. Mi raccomando, mangia leggero, sì, perché visto che siete più appesantiti di noi e state anche più indietro, non mangiare le lasagne a mezzogiorno, perché hai visto che a noi non è andata assolutamente bene. No. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, un cognome da serie B, due volte anche. Eh sì, due volte, è vero. È vero, caro ascoltatore. Oggi, a proposito di lavoro, c'è una interessante anticipazione di Enrico Marro sul Corriere della Sera. È il titolo principale della prima pagina del Corriere, I nuovi diritti delle partite IVA. Si intitola così l'articolo: le nuove tutele per gli autonomi, dalla maternità ai compensi si cambia. Piano contro la povertà e statuto dei lavoratori autonomi. A Palazzo Chigi si lavora per approvare giovedì in Consiglio dei Ministri due disegni di legge collegate alla legge di stabilità. Il primo sarà un DDL delega al governo per potenziare e riordinare gli strumenti a sostegno dei più bisognosi, visto che secondo l'Istat gli italiani in condizioni di povertà assoluta sono 4 milioni e 100 mila. A questo fine la legge di stabilità ha stanziato 600 milioni. Il secondo disegno di legge introduce o rafforza una serie di tutele, maternità e malattia, e di sostegni per i lavoratori autonomi. Qui la manovra di bilancio prevede 10 milioni per il 2016, 50 per il 2017. Ovviamente poi ci sono tutti i dettagli sulle tutele per le partite IVA, sui milioni per cercare di contrastare la povertà. Beh, sono anticipazioni di Enrico Marro sul Corriere della Sera, pagina 5, che vi segnalo perché sono interessanti. Per quel che riguarda la politica, c'è ancora anche la vicenda di Beppe Grillo, che ieri ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella pagina degli spettacoli, volutamente, proprio perché sta per partire una sua tournée di spettacoli teatrali. Un Beppe Grillo che ha fatto un'intervista molto bella, a mio modo di vedere, cioè a dire: io in fondo non sono il leader del Movimento 5 Stelle, non pensavo neanche di fare un movimento, faccio un passo di lato e soprattutto dice: io sono sempre stato così, comunque il comico, non ho mai avuto anime diverse, sono sempre stato me stesso, ma c'è stato un momento della vita in cui non potevo fare neanche delle battute per il timore di perdere 1-2%, far perdere al movimento. E ovviamente ci si interroga su questo passo di lato. Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, dice: la svolta sarà alle politiche. Beppe Grillo ha detto che farà un passo di lato, mantiene la promessa che ha fatto tempo fa. Ha sempre detto che il movimento avrebbe camminato sulle proprie gambe. Così Di Maio, intervistato da Emanuele Buzzi al Corriere della Sera. Non credo ci saranno nuove responsabilità oltre a quelle che stiamo maturando adesso. Il suo passo di lato è solo metaforico e le responsabilità sono in capo sia agli eletti sia agli attivisti. La via è una sola: agire con coscienza rispettando i principi del movimento. Ho sentito Grillo in questi giorni, conferma Di Maio, ma solo per capire come procedeva il suo lavoro sullo show teatrale. Il movimento cresce sulle proprie gambe, non ha bisogno di nessun parricidio. Così Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera. Oh, per quel che riguarda la politica estera, beh, è interessante sicuramente la visita del presidente iraniano Rouhani, che oggi inizia la visita europea, a cominciare proprio dall'Italia. E sono pronti accordi per 17 miliardi dopo la fine dell'embargo, dopo la fine delle sanzioni. 17 miliardi di euro sono gli accordi che l'Iran è pronto a mettere sul tavolo. I giornali fanno notare, tutti, e non è una cosa di secondo ordine, che per il protocollo e l'arrivo del presidente iraniano, oggi nelle scene ufficiali anche con il premier Renzi, non verrà servito il vino, caro Peter Bescapè, quindi tu non puoi essere invitato, non è solo, già solo per questo. Non verrà servito il vino, come sono bandite anche le strette di mano con la delegazione iraniana. Questo è l'aspetto, se volete, di colore, ma di colore poi fino a un certo punto, culturale, importante. E poi c'è l'aspetto economico soprattutto, e le commesse per 17 miliardi fanno gola certamente a tutti. C'è anche un'intervista che Repubblica fa a Emma Bonino, ex ministro degli esteri, che più si è spesa per non isolare mai Teheran e che ora va in qualche modo all'incasso, nel senso che Emma Bonino, soddisfatta, dice: Teheran non va isolata e può aiutare a risolvere la crisi in Medio Oriente, così intervistata da Repubblica. Dal punto di vista economico invece mi ha molto molto inquietato questa abbinata di due articoli, uno su Repubblica e uno su Libero, che riguarda il nostro vino, visto che di vino si sta parlando fino a questo istante. E cioè, sentite qui, Jenner Meletti, Repubblica: il Lambrusco sfida la Spagna. In Spagna c'è una regione dove utilizzano il vitigno del Lambrusco per fare del vino e ora dicono: vogliamo anche noi chiamarlo Lambrusco sulle etichette. Oh, ci stanno rubando il Lambrusco. In Spagna vogliono rubarcelo. I viticoltori in campo contro le imitazioni, fermeremo la liberalizzazione delle etichette. E Libero li chiama proprio così: ladri di vino. Attenzione, Carlo Cambi in prima pagina di Libero racconta: l'Europa è ladra di vino, non bastano i risparmi, vogliono anche le bottiglie, cari italiani. Ci vogliono rubare. La Commissione Europea punta ad assegnare l'origine controllata sulla base solo degli uvaggi e non anche del territorio, e dunque Nebbiolo, Verdicchio, Vermentino, Fiano, Moscato si potranno produrre all'estero col rischio di un'etichetta su due. Cioè conterà per la Commissione Europea non solo solo il vitigno e non anche il luogo, il prodotto, il terreno, la cultura che c'è intorno. Ci vogliono rubare il vino. Questo è il titolo di Libero. Vabbè, la Gazzetta ce l'ho? No, ma chi se ne frega del calcio. Allora, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina. Matteo Persivale racconta la decisione del rettore Richard Keynes del Brighton College in Gran Bretagna. Una pagina intera. Ha deciso che sì, gli studenti andranno sempre con le uniformi, ma i maschi, se vorranno, potranno usare l'uniforme delle femmine, gonnellino, e le femmine le uniformi dei maschi. Ma chi se ne frega!